Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Una cooperativa che cerca di ridare vita all'agricoltura di montagna. 320 soci circa, ma che sono quasi tutti piccoli proprietari, pochissimi fanno anche questo lavoro come prima attività, e che coltivano non prodotti a caso, ma cercano di ridare vita, di rimettere in circolo sementi, diciamo produzioni di un tempo, produzioni locali, e che quindi danno vita a mantengono in vita la biodiversità del territorio. Questo e tante altre cose sono ciò che fa la cooperativa La Fiorita di Cesio Maggiore. Vorremmo saperne di più e abbiamo con noi oggi Stefano Sanson, cooperatore della cooperativa, ma anche insegnante all'Istituto Agrario Antonio Della Lucia di Vellai di Feltre. Benvenuto Stefano. Sì, grazie a voi, buongiorno. Ecco, quello che ci aveva un po' incuriosito della cooperativa era il fatto di questo numero ampio di soci che conferiscono piccoli prodotti, ma prodotti anche di nicchia, o produzioni che cercate di dare voi perché portino avanti appunto una filosofia, perché quello che porta avanti la cooperativa è anche una filosofia che coinvolge anche il territorio, il recupero del territorio, il mantenimento del paesaggio e così via. Quali sono, ma intanto, quando è nata questa cooperativa e quali sono un po' gli obiettivi? Sì, la cooperativa proprio quest'anno compie 40 anni, è nata nel 1977, quindi è una cooperativa che c'è da un po' di tempo e ha sempre operato in maniera continuativa nel territorio bellunese. I soci, come hai detto, sono oltre 300, tutti piccoli e piccolissimi agricoltori. E il nostro obiettivo è proprio quello di dare, diciamo, una risposta a questi agricoltori perché possano gestire al meglio le loro risorse, i terreni che hanno, quindi le loro produzioni, e che si possa offrire ai territori, ai cittadini, ma anche in particolare ai turisti, un po' il meglio della biodiversità delle produzioni agroalimentari di montagna. Quali sono un po' i prodotti principali? Ho sentito parlare di mais sponcio, di orzo, di altre produzioni di questo tipo. Noi facciamo un po' tutte le produzioni vegetali, solo produzioni vegetali, e i prodotti un po' di punta sono i cereali e i legumi. Fra i cereali mettiamo proprio il mais sponcio. Abbiamo recuperato 20 anni fa, in collaborazione con l'Istituto Agrario di Feltre, una vecchia varietà di mais, si chiama sponcio perché ha il chicco fatto a punta, rostrato, che punge. Una vecchia varietà che c'è da centinaia d'anni, che stava sparendo, l'abbiamo recuperata, abbiamo fatto un po' di promozione, di valorizzazione, e adesso la proponiamo ai consumatori come farina per polenta, la classica farina per polenta della polenta di montagna, quindi quella bella soda, saporita e profumata. Ma accanto alla farina per polenta facciamo anche gallette di mais, facciamo anche i biscotti col mais, la pasta e quindi altri prodotti un po' più innovativi. Poi oltre al mais sponcio abbiamo recuperato una vecchia varietà d'orzo, che adesso proponiamo anche questa come orzo decorticato o anche come caffè d'orzo, meglio dire il surrogato del caffè, ma ancora come per il mais anche la pasta. E poi parallelamente abbiamo fatto anche un progetto di recupero dell'orzo da birra che conferiamo a un birrificio locale per produrre la birra Dolomiti. Beh, possiamo anche dire, insomma, parliamo del birrificio di Pedavena. È interessante questo fatto che piccoli produttori di fatto possano conferire ad una realtà molto più grossa per contribuire a creare un prodotto di nicchia. Ovviamente noi non forniamo tutto l'orzo per la birreria Pedavena, ma solo per fare un particolare tipo di birra, appunto la birra Dolomiti, che è una birra storica che si faceva fino a 50 anni fa. Quindi abbiamo cercato di non solo fare aggregazione fra agricoltori, ma cerchiamo anche di integrarci con altre strutture artigianali e industriali del territorio. Ecco, voi avete anche dei progetti che volete portare avanti. Quali sono un po' i principali di questi progetti? Sì, i nostri progetti adesso sono proprio questi di valorizzare i cereali, ma anche i legumi che non abbiamo detto, ma dicevo abbiamo fagiolo di Lamon, IGP, abbiamo il fagiolo Giavetti, Ballarossa, tante altre cose. Noi, i nostri progetti futuri sono quelli di cercare di dare un'anima ancora più importante a questa biodiversità coltivata, cercando di proporli al consumatore non come semplici materie prime, ma cercando anche di trasformarle in modo che siano più fruibili. Noi siamo coscienti che fare la farina per polenta, per fare una polenta che poi servono tre quarti d'ora per cuocere, è difficile, quindi noi vogliamo trovare altre forme di utilizzo, vorremmo che questa biodiversità avesse quindi altre chance e che questi prodotti siano un po' più furbi, si dice, un po' più smart, più fruibili, più alla portata anche dei giovani. Ci piacerebbe, per dire, fare degli snack con queste nostre produzioni tradizionali, quindi confezionali in maniera che possano essere utilizzate dai giovani o dagli sportivi nei nostri contesti di sport all'aria aperta. Che risposta avete dal territorio? Immagino che avendo oltre 300 soci ci sia un certo interesse, però questi sono soci piccoli e quindi un po' ci incuriosisce capire, cioè sono persone che magari coltivano per se stessi e poi hanno una parte di terreno che dedicano a voi e coltivano ciò che gli chiedete voi, sono loro che vi propongono. Sì, un po' questo, un po' quello, loro propongono quello che hanno in casa, diciamo quello che in più hanno e che quindi gli vogliono trovare un'altra forma di vendita, di commercializzazione, ma siamo anche noi a consigliare, quindi cercare di recuperare altre culture. Mi riferisco ad esempio anche al grano saraceno, che era perso. Noi adesso diciamo all'agricoltore, beh, se fai un po' di mais poncio l'anno successivo, poi in rotazione, che è fondamentale, fai del grano saraceno oppure fai delle patate o dei fagioli. Quindi adesso in una collaborazione con gli agricoltori, ma siamo in ambiti piccoli, come dicevi, mentre con il territorio c'è una bella collaborazione. Ad esempio, in questi ultimi anni sta crescendo in maniera fortissima localmente il consorzio di promozione turistica che si chiama Dolomiti Prealpi e insieme a noi sta facendo un grosso lavoro di utilizzazione di questi prodotti, ad esempio nell'ambito della ristorazione o dei B&B o delle attività agrituristiche. È un po' fare un po' di sistema, fare un po' di economia locale e legare l'agricoltura al turismo, che è scontatissima, però non è così facile. Poi è fondamentale. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, torniamo in linea tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Ho fatto in tempo ad avere un futuro che non fosse soltanto per me. Più che un'ipotesi era sicuro, era per tutti, era con te. Ho fatto in tempo a perdere tempo in cambio di un sogno, di un pezzo di idea. A conti fatti non ho perso niente, era un buon cambio e la scelta era mia. Trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare, oppure stare solamente svegli al limite dei sogni, al limite dei sogni. Ho fatto in tempo a imparare a volare senza dovere guardare giù e non conoscere certe paure che nel frattempo sono di più. Ho fatto in tempo a morire ogni tanto, son ripartito, eccomi qua. E addirittura mi son reso conto di cosa è fatta la mia verità. Si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare, oppure stare solamente svegli al limite dei sogni. Si trova sempre una ragione per restare o continuare o ricominciare e scivolare sugli stessi sbagli al limite dei sogni, al limite dei sogni. Palle, quelli che un tempo era meglio che mai. Porta pazienza se faccio di peggio, ma è solo stasera, mi passa, vedrai. Ho fatto in tempo ad avere un futuro che fosse molto più grande di me. Magari ne merito un altro di nuovo, dove comunque ci sei anche te. Torniamo in linea con il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di una cooperativa nella valle che va da Feltre a Belluno, una cooperativa che riunisce oltre 300 piccoli produttori. Stiamo parlando con Stefano Sanson, che oltre a essere collaboratore consulente della cooperativa è anche un insegnante dell'Istituto Agrario Antonio della Lucia. Metterei assieme le due cose perché la cooperativa lavora quasi esclusivamente con il biologico e anche questo istituto ha fatto la scelta di lavorare nelle sue produzioni, perché è un istituto che ha appunto del terreno e realizza delle produzioni, con il biologico. Perché questa scelta? Sì, più che con il biologico io direi con la biodiversità. Non tutte le nostre aziende sono biologiche, anzi, perché certificare biologico nelle piccole, piccolissime aziende agricole è molto difficile per questioni anche proprio di burocrazia. Noi lavoriamo molto sulla biodiversità, quindi con le varietà locali e con le tecniche tradizionali locali che si avvicinano tantissimo al biologico, quindi non posso dire biologico, dico biodiversità o coltivazioni a bassissimo impatto ambientale. Biodiversità, noi siamo convinti che in montagna non potremo mai coltivare le cose o come le si fa in altre zone molto più produttive di pianura. Noi per forza di cose dobbiamo cercare di fare cose un po' più esclusive, cose di qualità, perché non saremo mai competitivi con le grandi produzioni ad esempio della pianura. Volevo parlare di un paio di problemi che ho un po' visto che stanno un po' sorgendo. Da una parte l'abbandono in questi territori montani o premontani dell'agricoltura, cioè mi pare che anche nella zona della valle che porta a Belluno, quindi la Val Belluna, il bosco si è riappropriato di molti terreni e l'agricoltura per vari motivi era un po' scomparsa. Sta rinascendo, questa è un po' la prima questione. La seconda è quella il tema, diciamo, prosecco o altre produzioni di grandi interessi economici che stanno cominciando a guardare anche a quella valle come zona di possibile espansione. Volevo accennare un po' a queste due tematiche. Sì, è chiaro che la montagna un po' è l'agricoltura di montagna, come l'agricoltura in generale, è un po' in difficoltà. La montagna bellunese è sostanzialmente un distretto lattiero caseario, si produce latte, formaggio e poco altro. Ovviamente queste aziende, quelle zootecniche, cercano di riferirsi al territorio più pianeggiante della nostra vallata, il resto del territorio rimane, diciamo, inutilizzato e abbandonato. Ovviamente cosa succede? Che altri hanno visto al nostro territorio bellunese l'altissima naturalità, comunque dico io splendido, ma ci vivo, sono nato e ci vivo, quindi è facile dirlo, un territorio molto interessante anche per le produzioni agricole. E a questo hanno visto anche ad esempio i produttori di vino, di vite, che un po' alla volta stanno cercando di inserirsi in questo territorio. Ovviamente gli agricoltori locali, ma anche la cittadinanza, vivono questa realtà con qualche difficoltà, temono che si venga a fare un'agricoltura intensiva senza valorizzare il territorio. Ovviamente bisognerà trovare un equilibrio su questo, bisognerà capire di fare delle attività anche viticole, però in maniera sostenibile, rispettando l'ambiente, rispettando anche a chi ci vive. La Fiorita vuole un po' colmare questi spazi vuoti lasciati, diciamo, dall'abbandono, e dire ok, torniamo a ricoltivare la nostra terra, però facciamolo in maniera più sostenibile e, se possibile, valorizzando la biodiversità locale, senza andare a copiare modelli vicini a noi, ad esempio quello del Prosecco oppure quello delle mele del Trentino, che sicuramente sono interessanti, sicuramente è un successo, ma forse qui da noi in Valbelluna potremmo pensare a qualche cos'altro. C'era anche un altro piccolo, diciamo, un altro problema. Per esempio, ci sono giovani agricoltori, cioè giovani che escono dal vostro istituto agrario, l'Antonio della Lucia, che però non hanno terreni da coltivare, quindi dove mettere in atto ciò che hanno imparato. E i terreni, anche con l'arrivo di questi imprenditori dalle zone di oltremontagna, quindi dalle zone del Prosecco, hanno fatto sì che siano saliti i prezzi dei terreni agricoli, e quindi diventa più difficile per i giovani avere terra da coltivare. Questa potrebbe essere una difficoltà, qualcuno inizia a segnalarcela. I terreni adesso ovviamente iniziano ad avere un qualche valore maggiore, perché appunto utilizzabili per altre produzioni, quindi se prima era un po' più facile trovare terreni per la lavorazione e per la coltivazione, ma anche per le attività foraggere, per l'azienda zootecnica, adesso iniziano a scarseggiare e c'è un mercato un po' più competitivo dei terreni. Ovviamente questo è un elemento, possiamo anche considerare positivo da una parte, negativo appunto perché, come dicevi, i nostri allievi iniziano ad avere difficoltà, non saranno mai competitivi con le proposte che grandi aziende possono fare nell'acquisto dei terreni. Per concludere, dove si possono trovare i vostri prodotti? Voi avete dei punti di vendita lungo la valle? Sì. Allora, la cooperativa La Fiorita, più che vendere fuori e portare fuori il prodotto in altri mercati, vorrebbe attirare la gente qui, quindi venite ad acquistare i prodotti da noi. Noi abbiamo uno spazio vendita a Busche di Cesio Maggiore, per capire, di fianco al Bar Bianco di Busche, uno spazio vendita che abbiamo chiamato Bici Grill, sarebbe come un po' l'autogrill, dove la gente viene e può sostare ed acquistare il meglio delle produzioni. Poi abbiamo un altro punto vendita a Mel, in Valbelluna, e poi riforniamo dei negozi e dei ristoranti agriturismi del territorio. Quindi l'invito nostro è: venite in Valbelluna, godetevi uno o più giorni di vacanza e assaggiate le nostre specialità. Benissimo, ti ringrazio. Va bene, ringrazio a voi. E con questo è tutto. Se volete, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.